Kerzenschein verfasst in dunkler Zeit. Ein altes Stück von Pergament sich mit der Feder vereint. Der Zeichnung seines Arms entspringt der Universenzell. Guidante della candela, scritto in tempi oscuri, sulla vecchia pergamena, scorre la pena, e dal suo braccio nasce il disegno delle volte celesti, è l'inizio dei tempi e cambierà il mondo.